Enelog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che le condizioni di vita degli italiani siano peggiorate lo confermano anche i dati INPS sui servizi domestici. Da un lato diminuiscono le famiglie che possono permetterseli, dall'altro aumenta il numero dei nostri connazionali che in mancanza di lavoro decidono di cercare un impiego come colf o badanti. Fortunatamente però l'istituto previdenziale riesce a regalare un mezzo sorriso ai pensionati da 1.500 euro che il prossimo 1 agosto, è confermato, riceveranno. Questa è la notizia che oggi campeggia in molti giornali. Badanti di Casa Italia, cioè comincia a essere registrato il fenomeno del ritorno al mestiere delle occupazioni domestiche da parte di italiane. Probabilmente la crisi economica ha creato una sorta di nuovo bisogno e le donne italiane, che trovavano probabilmente disdicevole occuparsi anche dei mestieri che erano stati affidati a donne straniere, stanno riprendendoli. Questo è il momento della nostra riscossa. Non possiamo permettere che accada qualcosa di simile, ma dobbiamo dimostrare che in realtà esiste una figura assolutamente non considerata, non contemplata dagli osservatori di questo fenomeno, che in realtà può porsi come valida alternativa, anzi come alternativa splendida rispetto a questo fenomeno. Approfittiamoci per entrare in questa fessura che si apre in maniera inaspettata e fantasticamente e cronologicamente nel momento esatto. Adesso è il momento che voi usciate allo scoperto, so che mi ascoltate, so che voi siete lì pronti con lo straccio in mano e con lo sgrassatore nell'altra mano per far vedere chi siete. Omini di casa, questo è il vostro momento. Non fate che le donne italiane possano riprendere nuovamente lo splendido e agognato dominio dei lavori domestici. Dimostriamo che se se ne vanno le colf straniere, gli omini di casa sono lì pronti, con la spugna in mano, con lo spazzolone, con il mocio nell'altra, a prendere e occupare il posto che loro gli compete. Omini di casa, questa mattina fate sentire la vostra voce e dimostrate la vostra superiorità. 800240024, omini di casa, fatevi sentire. Come si stira una camicia? Innanzitutto si slacciano i bottoni del colletto e si stende il colletto per bene sull'asse. Se volete potete usare un po' di appretto, quindi col colletto ben steso si esercita tanta pressione in modo da farlo diventare ben liscio senza alcuna piega. Perfetto, una volta fatto il colletto iniziamo con le spalle, quindi mettiamo l'asse all'interno della prima spalla. Avete mai sentito una così gioiosa, fantasiosa, poetica descrizione dell'arte di stirare una camicia con l'appretto? Per generazioni ci hanno fatto sentire il peso sulle nostre spalle di questa sorta di atto di schiavismo e sottomissione che ci doveva dare gratificazione. È io che ti ho stirato le camicie per anni. Quante mamme, quante mogli, quante compagne hanno vessato i loro uomini con questo ricatto. È io che ti ho stirato le camicie. Noi le vedevamo lì, chine, prone sull'asse da stiro, sudate, ustionate con tonnellate di camicie da stirare. Ma arriva l'omino di casa. La camicia ce la stiriamo da noi perché è una gioia, è un piacere. Occuparsi il lavoro domestici, la vera grande alternativa alle responsabilità quotidiane che ognuno dovrebbe prendersi in orrendi posti di lavoro. Questo è il momento. Se ne vanno le rumene, se ne vanno le bielorusse, se ne vanno le filippine. Omini di casa, è il vostro momento. 800240024. Mi occupo al 100% della cucina in casa mia e della relativa spesa. Per fare un esempio di quanto cucina male mia moglie o quanto non cucina, anche quando fa i bastoncini Findus o le patatine fritte, le fa in forno. Io stiro da quando avevo 15 anni, perché non soddisfatto di come si stirava a casa mia, allora mi fu detto: o impari, se vuoi le camicie stirate, te le impari a stirare. Oh, the shark bait. 800240024. Più volte ci siamo occupati di questa reietta categoria degli omini di casa, più volte abbiamo fatto appello a quella che è la loro silenziosa, pudibonda opera quotidiana nel dimostrare che l'uomo in realtà è maestro delle operazioni domestiche. Abbiamo ascoltato le testimonianze euforiche di sgrassatori di vasche da bagno, di disincrostatori di water, di meravigliosi pulitori di interstizi polverosi, di debellatori di animali e insetti, che sanno veramente come mettere le mani nei prodotti domestici, che passano attraversati da un velo di inconfessabile lussuria attraverso i padiglioni dei supermercati destinati ai prodotti per la casa. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Finalmente, è il momento degli omini di casa. Allora, io sono single, ma anche quando stavo con la mia compagna fino a poco tempo fa mi occupavo della spesa, poi tra parentesi la facevo anche al gruppo d'acquisto, per cui lo facevo una volta alla settimana, mi veniva molto comodo. Si risparmiava pure, fra l'altro. Si risparmia pure, ci sono relazioni interpersonali, per cui in coda non sei come al supermercato, che il vicino è il tuo nemico, ma è in realtà una persona con cui puoi scambiare qualcosa. Torno a casa, passo l'aspirapolvere, le camicie me le tiro, e oggi che sono un single, quindi devo farmi tutto, ho imparato a alzarmi magari un po' prima la mattina, fare il pane, anche lo yogurt, farmi mettere di casa. Dica la verità, chi è che ha bisogno di una colf, di una badante, quando è un così grande e profondo piacere fare le cose da soli in casa? Secondo me è quando non bilanci più i tempi della tua vita, o magari hai troppe cose. Io posso permettermi questo perché non ho una famiglia, però mi rendo conto, se hai il figlio da portare in piscina, meno che a scuola, gli orari dell'ufficio. Ma uno, ma uno taglia nei momenti voluttuari, non va a giocare a calcetto, non prende vacanze, non esce a prendere gli aperitivi, vuole mettere, lei pensi, il profumo del vetril, quando pulisce i vetri e vede dalla polvere che ci appanna il punto di vista verso l'orizzonte della nostra finestra, passare lentamente prima il prodotto, poi ripassare l'acqua con la carta di giornale e vedere finalmente la trasparenza. È una sorta di cammino metafisico. Federico, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Anche lei è omino di casa? Sì, io sono omone di casa, più che omino. Beh, omino è una caratteristica professionale. No, lo so, sì, ha ragione. No, niente, sono diventato omino di casa, diciamo, a partire da 4 anni fa, che ho avuto un'operazione di 3 bypass, no? Ma niente di che. Cioè, ma che sono 3 bypass? Mai stato meglio in vita mia. E mia moglie, che ha un discreto lavoro, un buon lavoro, mi ha detto: io ti proibisco di andare a lavorare, diventi un casalingo. Pensi che fortuna. Bene o male, insomma, io cucino. Senta, mi dice una cosa, ma prima, sì, nel parquet che prodotto usa lei? Perché io prima passo lo straccio un po' umido e poi do qualche prodotto che trovo nel supermercato, ma non dà mai quel risultato che vorrei. Se uno poi ci cammina scalzo, i piedi rimangono un po' neri. Mi perdoni, sta parlando di parquet? Sì, di parquet. Io purtroppo non ho nessun parquet in casa, ho il marmo, cioè il marmo, le marmette. Ma è difficile trattarle, ma le fughe rimangono sempre un po' scure, però, se non usa un prodotto adatto. Sì, ci sono dei prodotti adatti, adesso non le so dire esattamente il nome, ma ci sono dei prodotti, proprio c'è uno che contiene dentro la parola fuga, proprio fuga, certo. Nella marca stessa, cioè nel nome del prodotto c'è questo fuga, e serve appunto per pulire la fuga. Ci piace pulita, è inutile. E il marmo risplende bene, risplende quando, diciamo, vuole mettere. Lei torna sua moglie a casa e vede come uno specchio, cammina sopra uno specchio. Beh, questa è la sua visione. In realtà io non sono un grandissimo pulitore di casa, sono bravo a pulire i sanitari, quello sì, perché mia moglie fa il fanghi, tutte queste cose qua così, e io mi metto lì con olio di gomito dopo, perché a ripulire il tutto, ecco. Cioè sua moglie, diciamo, lascia lordo il water lordato praticamente. Questo no, non il water lordato, la vasca da bagno, no, i fanghi, quando fa i fanghi, lei pulisce. E come fa a togliere la traccia del fango dalla vasca, perché è complicato? Sì e no, io cerco di usare, lo so che molti non ridiranno, ma cerco di usare una paglietta di lana di come si chiama, metallo, d'acciaio, molto molto sottile. Ma sua si graffia lo smalto? No, se lei usa un po' di, com'è che si chiama quel prodotto lì, porca miseria, è un prodotto cremoso, la pasta abrasiva? No, non la pasta, cioè non è la carrozzeria, è un prodotto per i sanitari. No, se lo smalto non si rovina, io però preferisco usare dei prodotti meno aggressivi. E poi diciamo, io la paglietta di metallo proprio l'ho proprio tolta da casa. Ci sono le spugnette, quelle gialle verdi, che sono mediamente abrasive, però non rovinano lo smalto. Vabbè, omini di casa, attendiamo i vostri consigli. 800 24 0024. Per lavare i piatti e le stoviglie che avete sporcato sia nel cucinare sia nel mangiare, occorre dell'acqua corrente, si trova in tutte le cucine. Abbiamo nelle cucine un dispositivo che si chiama, detto genericamente, lavandino, che comprende un paio di rubinetti, quello a destra solitamente corrisponde all'acqua fredda e quello a sinistra all'acqua calda. So che questa dettagliata descrizione dei misteri del lavello di cucina vi lascerà perplessi, perché non potrete sentirne la fine, ma incombe l'informazione del traffico. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Ho dovuto per lavoro anche specializzarmi nel, non sapendo stirare molto bene, nel stendere bene le camicie. Io faccio le pulizie da quando ho 19 anni, da quando me ne sono andato di casa, le pulizie di casa le ho sempre fatte, e stirare è stata una cosa che non mi è mai riuscita. Omino di casa e orgoglioso adesso. La mia, diciamo, specialità sono i vetri. Nessuno mi batte. È una cosa, mia moglie va a chiamare le vicine per farglieli vedere quando io li ho fatti. Che musica per le nostre orecchie. Il Omini di Casa Pride è il giorno in cui il 4% italiane tornano a fare le casalinghe. Dobbiamo bloccare questa emorragia. Nessuno deve mettere mani improbe nel nostro secchio del detersivo per lavare i pavimenti. Donne, andate a farvi una passeggiata, andate in bicicletta, andate a farvi belle, andate a farvi fanghi, come la moglie di quel fortunato ascoltatore che si fa i fanghi dentro la vasca e gli dà l'ebbrezza di pulire la vasca dal fango, e lui ci mette giornate intere pian piano con la paglietta e con il prodotto all'ammoniaca, di cui non cito naturalmente il nome e la marca, ma un prodotto ammoniacale, una pasta che lascia quel buon odore. Poi se volete potete reinsistere con altro prodotto che dà la brillantezza allo smalto della vasca. Francesco, buongiorno. Francesco? Sì, sono Francesco. Omino di casa? Sì. Da quanti anni fa l'omino di casa? Ma io più o meno da sempre, anche se mia moglie non lo riconosce. Comunque, quando metto le mani in qualche cosa di faccende domestiche, riesco a farlo meglio di lei. Questo sempre, quando un uomo fa le pulizie in casa è sempre meglio di quando le fa una donna, non so perché. La pulizia dell'argenteria. Cosa usa per l'argenteria? Prodotti specifici o prodotti artigianali, ecologici? Prodotti specifici, però l'olio di gomito è importante. Eh sì, perché soprattutto i manici dei coltelli, che sono tutte quelle cose lì che non vengono mai bene puliti. Sì, infatti. E poi la precisione anche di non contaminare parti che non devono essere non può usare la lama l'acciaio della lama non può essere toccato dal prodotto con cui lei pulisce l'impugnatura. Mica lo sanno tutti, infatti hanno questa argenteria che è bella pulita nella parte dell'impugnatura, poi viene tutta ossidata nella parte dell'acciaio. Non si usa quel prodotto sull'acciaio. Ma poi comunque lo stirare le camicie, ma lo sa un segreto come si fa? Lei può o con il domopac a coprire tutta la lama, oppure mettere un po' di olio di vasellina sulla lama che non si contamina e poi lo pulisce. Questo è un segreto della nonna. Chiara? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Guardi, lei entri in punta dei piedi perché è nel tempio degli omini di casa. Ma infatti sarò soft. No, sono molto contenta come donna, come avvocato, come moglie, come mamma di un bimbo piccolo. Ma non la fa felice sapere che c'è questa lussuria di essere omini di casa? Mamma mia, veramente una cosa meravigliosa. È un segreto, non lo diciamo in giro perché un po' ci vergogniamo poi. Sì. Però esiste una sorta di setta segreta di persone che si chiudono in casa e fanno le pulizie. Che meraviglia. No, devo dire bravi, bravi, bravi, perché nella mia piccola esperienza breve, perché insomma faccio l'avvocato da 5 anni, però ne ho viste un po' di tutti i colori, occupandomi in particolare di famiglia. Lei come lo pulisce il parquet? Scusi Chiara. Come lo pulisco il parquet? Non ce l'ho il parquet, quindi meglio di me. Vabbè, è facile uscire da questa cosa, nelle cose più difficili. Gli uomini sbagliano a sposare le donne solamente perché devono, tra virgolette, pulire casa, preparargli la cena. Ma chi è che sposa le donne? Scusi, io ancora, guardi, nella mia non più verde età non conosco nessuno che ha sposato una donna perché pulisca casa. Oh, come no, come no, come no. Dentro ogni uomo c'è la ricerca di una piccola governante di casa. Ma lei è disposta a qualunque sacrificio per avere un uomo che pulisce casa? No, io ho trovato un maritino che è bravissimo, è più bravo di me a pulire, a far da mangiare. Ah beh, allora c'è un omino di casa. Ma ce l'ha in casa, che vuole più la vita, è fortunata, se lo mantenga bene. Antonello. Antonello. Pronto, buongiorno. Omino di casa da quanti anni? Beh, io sono andato via di casa giovanissimo, per cui autodidatta, ho imparato tutto da me. Poi quando mi sono sposato più di 20 anni fa, non dico che ho preso in mano tutto, ma quasi, riuscendo veramente ad avere ottime soddisfazioni. Anche Antonello, diciamo la verità, uno le lascia fare un po' di anni per fargli capire quello, magari è una cosa che possono fare, ma quando capisce poi in realtà non ci arrivano più di tanto. Bisogna metterci male mani noi. Lei ha mai visto una donna prendere un materasso e sbatterlo per bene e passarlo, purificarlo? No, mai, non ce la fa, non può farcelo. Togliere la polvere sotto il letto? No, non lo fanno mai. Togliere i cassetti e togliere quegli animaletti che rimangono negli interstizi dei cassetti? Mai. Ecco, spero che non sia l'ascolto mia moglie, perché effettivamente sono dei mestieri che generalmente faccio io. Devono farli gli uomini queste cose, mica le donne, quando mai? Su. No, è molto difficile. Volevo dare 2 informazioni, se ho l'occasione. Certo. Una è che per il parquet c'è un buonissimo prodotto, si chiama Lava in Cera, non dico la marca. E nelle fughe del parquet, noi abbiamo il piano superiore di casa, tutto con il parquet, naturalmente ci vuole olio di gomito, c'è una cera particolare che va a riempire le fughe. Guarda, io ho voluto un parquet con una grossa scanalatura fra un tavolo, una tavola e l'altra, proprio perché impegno il tempo. Io con uno spazzolino piccolissimo mi faccio ogni giorno 1 metro quadrato di parquet, bellissimo, si trova di tutto in mezzo con le cose, veramente non si, io metto tutto in una scatolina e colleziono, vedi, questo pelo apparteneva, ecco, ognuno c'è sempre qualcosa da scoprire in casa. Paolo, buongiorno. Buongiorno. La Omino mia esperienza è stata una rinascita praticamente. Io fino a 7 anni fa non ero in grado di fare praticamente nulla. Ho conosciuto mia moglie, che per vari problemi non è molto operativa sui lavori di casa, ma ha un ottimissimo lavoro, e ho iniziato a muovermi all'interno di queste faccende domestiche. Io, come dicevo appunto alla segretaria che mi ha contattato, è un'esperienza da fare, perché veramente, a parte entri in contatto con quella parte che è sempre stata femminile e impari soprattutto a rispettare molto di più. Impropriamente è stata femminile, perché io, guardi, basta passare un attimo per gli scompartimenti dei supermercati destinati ai prodotti per la casa, cioè io ci starei ore, ci passerei tutto il giorno. Ogni giorno si scopre qualcosa sullo stereotipo disincrostanti all'aceto dei genitori, forse non tanti i nostri genitori, ma dei nonni, guai, cioè il nonno si tornava a casa, la donna era la donna che faceva le pulizie, che controllava e tutto. Io le dico, io sono diventato la lavatrice, è mia, guai a chi me la tocca, l'aspirapolvere. Lo pulisce il filtro spesso, perché non lo fanno mai le donne. No, io ho... Poi chiamano l'idraulico, magari basta pulire il filtro. Un'ottima aspirapolvere senza filtro e senza niente, la lavo tranquillamente sotto la doccia, smonto tutto, si lava e si richiude. Risparmi coi filtri, risparmi con tutto, sono quelle turbo. Ma se dovessi dire qual è la sua specialità, Paolo, la cosa che fa meglio? È tutto. Io cucino, faccio la spesa, lavo e cerco di inserire lavoro e spesa. Diciamo una cosa fra noi scusi Paolo che non ci sente nessuno. Come lasciano le donne la cucina dopo che hanno cucinato? No. Non ho capito, mi come lasciano le donne la cucina dopo che hanno cucinato? È una cosa che non si può nemmeno dire. Vabbè, ma non c'entra, questo dipende dall'abitudine. Cioè, chiaro, mia moglie ogni tanto mi fa la sorpresa di cucinare, e io amo mia moglie alla follia, però se cucina per due, quando entra in cucina sembra che abbia fatto esattamente per 27. Cioè il segreto lo sa qual è, ma lo sa meglio di me, è che se uno ha tre pentole sul fornello, man mano che ne togli una deve subito pulire intorno lì. Esatto, vabbè, ma sono così, io la mia l'ho trovata così e non la cambierei mai, ma mai proprio. La mia poi non si butta nel lavello, si lava subito, si mette subito il lavapiatti o si lava lì per lì mentre... No, ma le pentole no, e mia moglie purtroppo le mette il lavapiatti. Ma senza passarle prima con la pezzetta? Sì, sì, no, beh, no, non verranno mai pulite, poi si intasa, vanno pulite bene, togliere cambiare il grosso e buttarlo via nell'umido e poi si mette a lavapiatti. Continuerei per ore, ma mi dispiace, è finita qua, spero che sia servito questo momento di gloria e giusto orgoglio degli omini di casa che finalmente avranno modo di dimostrare la loro arte e la loro perizia.